Sei l'uragano più bello che io abbia mai visto. Il migliore dei dolmen si alzerebbe per te. Fai tremare la terra e si innalzi al tuo fianco, ma quando non riuscirà ad elevarsi sei perfetti, agenti del caos, ci smontiamo come i miti, mio re dell'anarchia, mio astro imprudente, preferito quando piangi, raccogli le tue lacrime e bagna la tua fronte, qualunque sia. Piange diamante, piange, piange diamante, mio Cristo in diamante, ti porto sempre, sempre, ti porto sempre. Sempre, sempre. La verità è che entrambi abbiamo macchia e nessuno dei due può sfuggire di l'altro. C'è sempre qualcosa di te che ancora non so, come il lato nascosto della luna una volta svelato. So che non lo dimenticherò. Quanti pugni ti hanno dato che avrebbero dovuto essere abbracci, e quanti abbracci hai dato che avrebbero potuto essere pugni. Mio caro amico, l'amore che non si sceglie non si lascia cadere. Mio caro amico, con te la gravità è graziosa, la grazia è Cristo in diamante, ti porto sempre, sempre, ti porto sempre, ti porto sempre, sempre. It's gonna be the energy. And then